Buongiorno a tutti. Oggi nella lezione con l'El Torah Roma studiamo Halakha e oggi inizieremo un sub percorso sulle leggi della Kashrut, dentro le quali in questo momento iniziamo a studiare un po' e ad approfondire le regole della Bassar Bechalav, cioè carne e latte. Allora vediamo un attimino piano piano il testo e la traduzione di quello che abbiamo davanti. Uzharnu Batorah. Siamo stati avvertiti, per così dire, nella Torah, e cioè si usa questo termine quando si parla di una mitzvah negativa, lotta a sé, ciò che non bisogna fare. Bishelosha Mekomot. In tre punti della Torah è scritta la seguente cosa, ripetuta, e cioè Lot Vashel Gedi Bachalev Immo. Significa letteralmente: non cuocere il capretto nel latte della sua madre. Questa dicitura la troviamo due volte nel libro di Shemot e una volta nel libro di Devarim. E per quale motivo la Torah ripete per tre volte la stessa esatta cosa? Vediamo. Vekiblu Chachameinu Zichronam Livracha. Kiblu, hanno ricevuto, Kabbalah, ricevere, e cioè la tradizione partita da Moshe Rabbeinu, trasmessa in tutte le generazioni dai nostri Chachamim, è la seguente: ognuno dei tre punti in cui si parla del divieto, appunto citato, indica un altro aspetto del divieto. Ora vediamo. Primo, Echad Leisur Bishul. Il primo è per indicare il divieto di cuocere, di cottura. E come si definisce questo divieto? Sheasur min haTorah, esiste un divieto biblico, un divieto della Torah, levashel, di cuocere, cuocere letteralmente, cioè sul fuoco, besar behema tehorah im chalav tahor. È molto limitata la cosa. Cuocere carne di un animale behema puro, kasher, significa behemah, animale, bovini e ovini, solamente, non animali, altri animali kasher, come animali selvatici kasher, per esempio il daino, per dire. Ok? Quello non rientra, quello si chiama chaya, non si chiama behemah. La Torah parla di behemah. Quindi behemah kshera, animale kasher nella categoria behemah, e latte di animale sempre kasher. Ok? Questo è il divieto di cottura originale della Torah. Primo divieto. Secondo divieto indicato dalla seconda volta che la Torah ripete, Echad leisur achila. Secondo divieto viene ad indicare il divieto di cibarsi, di mangiare dal prodotto di questa cottura detta prima, cioè sheasur lechol chalav ubasar yachdav, che è vietato mangiare carne e latte insieme, sempre carne della behemah kshera e sempre latte kasher, dall'animale kasher. Scusa, Sì? latte sempre di Bema però. Sì, Ah, sì, sì. scerma di Bema. Sì? U min haTorah, e ulteriormente ancora più limitato. Vediamo, perché la Torah vieta il mangiare davka keshenit bashlu ze in ze. Il mangiare è vietato, l'origine del divieto biblico, solo quando sono stati cotti insieme. Quindi quello che è stato cotto, indicato prima nel primo divieto, quello stesso prodotto è vietato mangiarlo. Ma carne e latte insieme, non cotto insieme, cotto separatamente, poi mangiato insieme, non rientra nel divieto originale della Torah. Ok? Per questo motivo i Chachamim spiegano, la Torah dice sempre bishul, anche nella seconda volta, non dice non mangiare, dice non cucinare, perché per indicare che il divieto del mangiare è solo se sono stati cotti insieme. Terzo divieto. Ve'chad, è l'ultimo. L'ultima volta che è ripetuta la cosa è per indicare che cosa? Leisur Hana'a, per indicare il divieto di trarre beneficio, e cioè Sheasur Lehanot mi besar behemav chalav shenit bashlu yachad. è vietato trarre beneficio e, poi faremo qualche esempio, è vietato trarre beneficio da la carne di behemà e latte che sono stati cotti insieme, sempre stati cotti insieme, quindi di nuovo la Torah usa il termine bishul, cucinare, cottura, ok? Le domande facciamo dopo. Allora, se è possibile aspettare 2 minuti, perché credo che alcune cose saranno chiarite nei prossimi pochi paragrafi che faremo oggi, eventualmente poi tutte le domande si possono fare, e anche a quelli che ci seguono dal vivo, potete scrivere le vostre domande nei commenti e, se Dio vuole, dopo cercherò di rispondere. Ora, quello che abbiamo detto è che non si può trarre beneficio, solamente vi do una piccola idea di quello che si tratta, che non si può trarre beneficio in nessun modo, neanche regalare a un non ebreo, per esempio, che può mangiare carne e latte se volesse, ma noi non glielo possiamo regalare neanche. Tanto per dire fino a che punto arriva questa cosa. Ora vediamo il secondo comma, Bet, nella pagina 95, e entriamo un pochino appunto in questo discorso qua. Besar behema behalav. Il divieto originale, quindi, di carne di behema con latte, shenit bashlu yachad, che sono stati cotti appunto insieme, cosa ci si dovrebbe fare se dovesse accadere questo? Tzarich lehashliham, bisogna buttarlo, ule abedam, e o eliminare, distruggere, diciamo. Veasur li tenam le goi, appunto come dicevo, è vietato anche darle, anche se solo regalare, a un non ebreo, o le baalei chaim, oppure se uno volesse darlo da mangiare a un proprio animale, dice vabbè lo do al cane o così via, anche questo sarebbe vietato, perché anche questo si chiama trarre beneficio. Però non è come il Chametz a Pesach. Abbiamo appena festeggiato Pesach e sappiamo che a Pesach anche la minima quantità di Chametz è vietata. Nel caso di altri divieti della Torah che non sono il Chametz, esiste un concetto che si chiama Bitul, e cioè quando arriviamo ad un volume di elemento permesso che può rendere batelle, cioè annullare il sapore dell'elemento vietato, possiamo considerare tutto l'elemento permesso. E ora facciamo l'esempio. Haya bachalav pishishim che neged habasar. Se ci è stata una cottura di carne e latte insieme, per esempio, in una pentola di latte che stavi, per esempio, pastorizzando e qui facendolo cuocere nella pentola, e poi ti accorgi che dentro c'era un pezzo di carne, di bema, quindi è proprio basar bechalav, cottura della Torah, andiamo a vedere se ci fosse un volume di 60 volte quanto latte che rispetto al pezzo di carne, allora in quel caso consideriamo batel, consideriamo annullato il sapore della carne, mozim et abasar, tiriamo fuori dalla pentola il pezzo di carne, beachalav mutar bishtia, ed è permesso, sarebbe permesso bere il latte. Però una cosa importante è di capire come funziona questo calcolo del per 60. Non è secondo il peso, ma è secondo il volume. Significa, come si fa a capire? Allora, se noi prendessimo una pentola più grande e la pentola più piccola dove c'è questo latte dove è stato cotto, cosa facciamo? Usiamo dell'acqua, per esempio, di una cosa neutra, prendiamo quel pezzo di carne e lo immettiamo nel pentolino d'acqua, l'acqua che si smuove esce fuori dalla pentola al posto di quel pezzo di carne che si è messo, quello è il volume del pezzo di carne. 60 volte quanto di latte rispetto a quella quantità di acqua che si è usato per l'esempio, renderebbe battel l'eventuale carne che sarebbe dentro, caduto dentro. Quindi questo è il modo di capire il volume, non il peso, il volume. Questo, abbiamo detto, è se si tratta di una cottura di carne e latte che sono biblicamente midoraita vietati, allora se non ci sono il per 60, bisogna eliminare, non si può neanche regalare, neanche dare a un animale, eccetera. Ma nitbashel besar of bechalav, se invece ci fosse stato cotto nel latte un pezzo di carne di volatile, oppure besar behema, anche se fosse carne sì di behema, però non cotto insieme, ma messo sotto sale o sotto olio o sotto altro liquido, salamoia, quello che è, con latte, che è una forma di cottura, ma non per il bishul di cui la Torah parla, quindi è vietato solo mide rabbanan, come la carne del volatile, o carne originale con latte, ma non cotto, bensì sotto sale o sotto olio. Allora questo è vietato mide rabbanan dai maestri e non dalla Torah. In quel caso non vige il divieto di trarre alcun beneficio, e anche se è vietato mangiarlo, è permesso venderlo o darlo ad un non ebreo. Mutar le mohram le goi, è permesso fare la vendita di questo, se dovesse essere accaduto, o litenam le balei chaim, oppure, come abbiamo detto prima, anche darlo a un proprio animale, se si volesse, perché lì non hanno esteso il divieto di mangiare fino al punto anche di rendere vietata vietato il trarre beneficio. Chiaro? Sì, sì. Ok. Ora, tornando al divieto di mangiare, alla voce Gimel, vediamo. Chachamim hosifu, i chachamim hanno aggiunto a ciò che è stato vietato dalla Torah, ve asru, ed hanno vietato anche, appunto, achilat besar chaya ve of tehorim. Non solo la behemah, ma anche la chaya, quindi l'animale kasher selvatico, e anche of volatili kasherim, shenitar bevu bechalav, se si fossero immischiati insieme con il latte o il latticino, bello bishul, anche senza che fossero stati cotti insieme, come era il divieto originale. Afilu nitar bevu keshehem tzonenim, anche addirittura se il miscuglio avviene a temperatura ambiente o fredda, quindi non c'è un vero scambio di sapore, che sappiamo avviene quando c'è il calore di mezzo, anche in quel caso è vietato mangiarli insieme. Che moken, inoltre, queste sono adesso indicazioni generali che andremo poi a entrare più nello specifico delle casistiche e delle situazioni che potrebbero realizzarsi, ma qui stiamo dando delle indicazioni generali. Che mohen, inoltre, asseru, i maestri hanno vietato ha'alatam yachad alotosh shulchan. Se due persone mangiano insieme sullo stesso tavolo, è vietato che uno mangia carne e l'altro mangia di latte, senza che ci siano certe condizioni che vanno ad aiutare il riconoscimento, il ricordo che l'uno non deve assaggiare dall'altro, e vedremo in dettaglio più avanti quali sono queste condizioni. Ela imken betnaim amatimim, solamente secondo delle condizioni idonee che i chachmim hanno indicato. Tornando un attimino alla carne di volatile e di animale selvatico kasher, che non sono previsti nel divieto originale della Torah, ma sono vietati dai chachamim con il latte, allora i maestri spiegano che anche questi vengono chiamati carne, e se rimanessero permessi si potrebbe incorrere in un errore con della carne di behemà e confondere con carne di chaya, animale selvatico kasher, o carne di volatile. Ma questi divieti i chachamim li hanno estesi solamente, appunto, come abbiamo anche alluso prima, al mangiare, e non al divieto di cuocere o trarre beneficio. Quindi in teoria uno potrebbe farlo preparare o cuocere per un non ebreo, o vendere a un non ebreo, quindi i due altri divieti, oltre a quello di mangiare, quindi quello di cuocere e cucinarli e quello di trarne beneficio, non sono stati estesi anche a questi altri elementi, quali carne di animale selvatico chaya e carne di of volatile. Solamente il divieto di mangiare è stato esteso a questi due altri elementi con il latte. Ok? Cioè, tu per un goi potresti cuocere? Sì. Potresti cuocere e... Cioè tu in un altro vicino, un'altra volta puoi... Esatto, in una determinata situazione che potrebbe verificarsi. Sì, tu puoi farlo... Sì. Oppure, un altro esempio dove potrebbe un ebreo fare questo, in delle ricerche scientifiche. Sì, sì. Che se fosse vietato, cioè per le ricerche scientifiche, all'ebreo è vietato far cuocere carne di Behemah Kshera con latte, perché quello è il divieto della Torah e la Torah non fa differenze per quale sia il motivo della cottura. Però se fosse carne di animale selvatico o volatile, kasher, l'ebreo per ricerca scientifica, per esempio, potrebbe farlo cuocere perché il divieto non è esteso alla cottura, solo al mangiare. Ok? Quindi quello è un altro esempio. Però, per ciò che riguarda il divieto sì originale, quello, cioè il basar behemah, la carne di behemah kshera con latte, quello è vietato anche darlo a un non ebreo separatamente i due elementi e lui poi farà la cottura insieme, per sé sarebbe comunque vietato. Come vediamo adesso nel prossimo paragrafo 96, Assur latet basar bechalav lenochri, è vietato dare la carne e il latte al non ebreo, velomarlo e dirgli shei vashlem, ora cuocilo tu, afilo leatzmo, anche se solo per sé. Ubichlal ze è inoltre vietato, e questa è già un'estensione della regola, Assur latet lo basar, è vietato dare al non ebreo della carne, al menacce yevashlo bikli chalavi ashayachlo, perché il non ebreo lo cuocia in una pentola di latte che appartiene a lui, che appartiene all'ebreo. Cioè se io ho una pentola di latte e il non ebreo lo vuole usare per cuocere la carne, sarebbe il macro, sì, è vietato per me darglielo, perché visto che sarebbe vietato per me non posso dire al goy di farlo. Ora per fare un attimino una pausa sulle questioni tecniche della halakha di carne e latte, che oggi abbiamo visto il significato delle tre volte per le quali la Torah ripete Lote Vashel Gediba Chalevimon, non cuocere il capretto nel latte della sua madre, e abbiamo spiegato perché in ognuna delle tre volte si parla di cottura, entriamo un attimino se si può capire le motivazioni di questa mitzvah, che molto spesso sentiamo tanti motivi, la gente parla spesso di igiene o della mancanza di frigoriferi nel deserto. Vediamo cosa dicono le nostre fonti. Secondo alcuni commentatori e chachamim, la mitzvah questo aspetto della kashrut, cioè quello di astenersi dal basar bechalav, dal carne e latte, rientra nella categoria dei chukim. I chukim sono gli statuti che non hanno motivazione umanamente comprensibile. Ma non tutti sono d'accordo, non tutti i maestri sono di questa opinione. Vi sono tra i maestri Rishonim come Ramban e Rashbam che scrivono che il motivo della mitzvah è legato, come anche molti pensano comunemente, a evitare una sorta di crudeltà nei confronti degli animali. Cosa si intende? La Torah parla di capretto non per caso, anche se il divieto non è rivolto solo al capretto. E, parentesi, questa non è una cosa che si dice solo in questo caso. Spesso la Torah farà un esempio di un animale, ma prendendolo come esempio, come nelle leggi civili di danni, la Torah userà spesso l'esempio del toro o dell'asino. Perché? Perché quelli erano gli animali più comuni in quei contesti, ma la stessa cosa vale per un cane o per un cavallo e così via. Quindi adobra a Torah di Brabba Hove, dicono i maestri. La Torah spesso parla secondo il contesto presente e comune, ma lasciando comunque, non limitando a quella letteralità, a quel discorso specifico che la Torah ha indicato. Anche nel nostro caso, appunto, dicono questi maestri, la Torah parla del capretto per una questione pratica. Qual è? È che spesso il capretto nascono gemelli, nascono due insieme. Quello che usavano fare è che uno veniva mangiato, uno dei nascituri veniva mangiato, e l'altro veniva allevato per poi, eccetera, eccetera, la prossima generazione dei capretti. E visto che le capre hanno molto latte quando danno, quando partoriscono, allora cuocevano letteralmente il secondo nascituro anche mettendoci il latte della madre proprio letteralmente. E questo è un discorso che la Torah vede come crudele, perché lo stesso latte che alimenta la vita del capretto veniva adoperato in questa maniera. E allora la Torah usa questa terminologia perché questo era hovè, questo era comune, ma non per limitarlo solo al capretto e solo al latte della sua stessa madre. Il discorso, come abbiamo detto prima, è definito in un'altra maniera, ma questo è il motivo per cui la Torah usa questo esempio secondo i maestri citati. Secondo il Rambam, Maimonide, mi sa che l'hai detto tu prima, è una questione di Avodah Zarah, cioè che all'epoca l'uso dei popoli circostanti, che appunto erano Ovdei Avodah Zarah, che erano pagani, avevano questo uso di mischiare, cuocere insieme carne e latte, e quindi secondo lui questa è l'origine del divieto, e proprio per, come tantissimi divieti della Torah, è volto a creare una distinzione, Kedushah, che significa anche essere distinti dalle nazioni, dalle altre nazioni, e quindi mantenere l'identità ebraica. Un altro aspetto non meno interessante, che è esposto dal Sefer HaChinuch ed è anche esposto nel Zohar e nelle opere della Kabbalah, è che è una questione, sarebbe il mischiare carne e latte, sarebbe una questione di creare un ibrido non naturale. Come ci sono nella Torah diversi divieti, come il shatnez, come il non indossare un tessuto che è un miscuglio di lana, che è del mondo animale, e lino, che è del mondo vegetale. Oppure innesti vietati, per esempio, sia nel mondo animale che nel mondo vegetale, seminare diversi tipi di semi insieme, eccetera. Allora anche qui abbiamo una cosa simile, e cioè il non creare miscuglio o innesto di due, tra virgolette, mondi diversi. E questa è una cosa, come ripeto, anche abbastanza approfondita nella Kabbalah, perché si parla di, a livello cabalistico, si parla di carne rossa, che è quindi legata, il rosso è legato all'attributo della Gevurah, del rigore, del din, del giudizio, e dall'altra parte abbiamo il latte bianco, il bianco è rappresentativo dell'aspetto chesed, benevolenza, vicinanza, al contrario della lontananza della Gevurah, eccetera. Quindi un non creare un miscuglio, un mischiare le carte, diciamo così, in maniera che non è prevista. Questi sono diversi aspetti visti dai vari Chachamim, come abbiamo visto, per ciò che riguarda cosa potrebbe essere una possibile motivazione di questa mitzvah, anche se la Torah stessa non indica in maniera chiara, almeno, forse in maniera allusiva, secondo quanto abbiamo visto, quale sia il motivo stesso. Comunque, per concludere la lezione di oggi, e prossimamente, nella prossima lezione, approfondiremo come, secondo la Halakha, deve avvenire e in quali condizioni deve avvenire la distinzione e la separazione tra, appunto, carne e latte. Ma oggi abbiamo visto le basi, quale è la cosa vietata dalla Torah e quale è la cosa vietata dai Chachamim, cosa cambia. Cambia nel caso di un errore o di una confusione creata, per esempio, nella nostra cucina. Uno, per capire come agire, prima di prendere e buttare tutto, come forse alcuni avrebbero l'istinto di fare, chiamare il Rav e dare i dettagli specifici, perché il Rav possa capire che tipo di divieto, e se c'è un divieto, e se si deve kasherizzare qualcosa, oppure se basta solamente pulire, o se addirittura l'elemento è ancora permesso a mangiare. In base alla situazione specifica cambia moltissimo la halakha finale di come agire. Quindi per questo è importante un po' entrare in quello che io chiamo le budella della halakha, cosa c'è dietro, per capire che non è o carne o latte, o bianco o nero. Spesso ci sono degli ambienti grigi, che ovviamente non so se non riusciremo ad entrare in ogni tipo di casistica e questione, però è un'infarinatura, diciamo così, per capire che c'è tanto dietro, tantissimi dettagli, e quindi ogni situazione, anche se simile tra una e l'altra, potrebbe in realtà essere differente. Ecco perché è anche importante, appunto, chiedere quando c'è una scelta, quando c'è una domanda. E molti dicono sì, ma non voglio disturbare. Beh, questo più che ogni altra cosa è il ruolo di un RAV, proprio chiarire questo tipo di dubbio nel permesso e il vietato. Allora vi auguro una buona giornata, grazie a tutti i presenti e a tutti quelli che seguono virtualmente. Azzac. Azzac. Azzac.